Buongiorno a tutti, sì. In questa giornata diciamo che siamo tutti un po' mobilitati perché questo posto ce lo vogliamo riprendere, ora vi racconteremo meglio. Sì, infatti magari fisica. Sì, appunto la corrispondenza è perché, come annunciavamo, insomma, uno spazio che esisteva appunto da 9 anni, se non sbaglio, l'officina occupata e autogestita dagli studenti di fisica, con all'interno anche una ciclofficina che era comunque un punto di riferimento per tutta l'università, è stata chiusa per dei problemi strutturali della facoltà, ma come capita molto spesso per gli spazi che vengono animati dal basso e con delle proposte anche appunto di lotta, di critica rispetto a quella che è l'università, l'amministrazione dell'università, le varie figure, i docenti vedono con poca simpatia questo dibattito. Va bene quando parlano loro dalla cattedra, ma quando gli studenti vogliono essere un po' più protagonisti sembra che dia fastidio. Infatti, come capita per le occupazioni che vengono sgomberate, per le case che vengono sgomberate, preferiscono murarle e lasciarli vuoti, e questo è quello che purtroppo sappiamo da pochi giorni essere successo a uno spazio dentro l'università, una cosa che forse tra le prime volte che succede che uno spazio viene murato addirittura così dentro la Sapienza, almeno a mia memoria. Poi io parlo da... Sì, no, ce n'è un altro di caso che è stato a giurisprudenza e diciamo che è un caso quasi che ci fa sperare bene, perché in quel caso la saletta era stata murata, ma gli studenti e le studentesse l'hanno riaperta e ancora l'autogestiscono, diciamo, in maniera più presidiata di quello che era prima l'officina, ma comunque insomma ci stanno dentro e l'aula è di nuovo degli studenti e delle studentesse. Va bene, allora magari cerchiamo... Da questo punto di vista siamo quasi speranzosi. Ok, allora cerchiamo un attimo magari di partire dall'inizio, magari un breve racconto per chi ci ascolta che magari non conosce la storia di questo spazio, brevemente, e poi insomma per arrivare a quello che ci sarà oggi. Sì, diciamo che questo spazio è nato nel 2009 e durante il Movimento dell'Onda, quando era anche più facile ottenere degli spazi in università. Diciamo che in questa fase un po' di bassa, di repressione generale, è sempre più difficile aprire di nuovi spazi e cercare di riappropriarsi anche proprio del tempo all'interno dell'università. E dal 2009 dentro quello spazio c'è passato veramente di tutto, diciamo che è stato... con i pro e i contro, un porto di mare dell'università, perché era uno spazio in cui esisteva un'assemblea politica, esisteva un gruppo che faceva riparazione di biciclette, che ha introdotto appunto l'officina ciclomeccanica tra le prime nell'università, tra le prime, diciamo, anche quando si parlava meno di biciclette erano meno pop, e in più c'era anche un laboratorio di elettronica. Insomma, c'erano molte persone e molte individualità che si incontravano, si attraversavano e potevano condividere saperi. Diciamo che la condivisione dei saperi è sempre stato sia il motto, sia forse la linea politica dello spazio all'interno dell'officina. E nel corso degli anni, poi io sono forse 3 o 4 anni che la frequento più assiduamente, e quello che abbiamo fatto è stato organizzare dei festival, in particolare Mind the Gap, ma anche altre occasioni, in cui cercavamo di invitare delle personalità accademiche e non a discutere di problemi concreti della nostra epoca, problemi spesso legati alla tematica scientifica, quale ad esempio le nuove tecnologie nel mondo del lavoro. Abbiamo parlato anche di big data o di ambiente o di TAV da un punto di vista tecnico. Diciamo che il nostro contributo era sempre quello di cercare di apportare una visione tecnica di persone che comunque hanno una competenza o comunque hanno imparato qualche cosa su come funziona la tecnica, e cercare di dargli un taglio politico per non rimanere asettici e piuttosto prendere una posizione anche su quello. Questo era un po' lo spirito dell'officina negli ultimi anni, e forse anche da quando è nata. Sì, ricordo cicli di incontri, vabbè. Insomma, per non, anche io ho partecipato per anni all'officina di fisica, ero la voce che qua dalla radio, e insomma mi ricordo dei cicli di incontri e opuscoli sul tema del nucleare, delle energie, sui rifiuti. Insomma, è stato un luogo da cui sono partite tante cose molto importanti, insomma, l'officina degli studenti. Ma sì, delle cose di valore, cioè, secondo noi, come possiamo dire, che comunque ci siamo impegnati, abbiamo fatto questo lavoro sempre autogestito, in totale, diciamo, indipendenza da varie realtà politiche, nazionali o comunque partitiche, sindacali o chi che sia. Abbiamo sempre cercato di lavorare sui contenuti, mettendo la nostra esperienza e le nostre capacità, ma soprattutto appunto imparando insieme e cercando di fare dei ragionamenti che avessero un minimo senso, e credo che tra gli opuscoli e le cose che abbiamo ancora come materiale si possono trovare delle cose interessanti. Sicuramente forse quello scenario energetici che è stato fatto ormai 4 o 5 anni fa è stato tra i più interessanti, anche per come era importante nel momento storico in cui andava a essere pubblicato, appunto una critica sull'utilizzo dell'energia e una visione anche critica sulle energie rinnovabili, che difficile trovare altrove, come posso dire, no? Insomma, tipo di materiale che non è facile incontrare. Quindi questa ricchezza, insomma, quando viene espressa così magari dal basso, è difficile che venga riconosciuta, però questo, insomma, purtroppo lo sappiamo anche, insomma, dai microfoni di questa radio lo sappiamo bene. Però cosa è successo secondo te, insomma, secondo voi, qual è la motivazione del fatto, insomma, che sono arrivati a murare l'officina, la ciclofficina di fisica, e insomma qual è cosa avete intenzione di fare per rispondere a questa iniziativa? Ma vediamo, nel corso degli ultimi anni bisogna essere onesti che c'è stata una fiacca generale in università, diciamo che un po' colpa del frangente economico, un po' colpa del governo e di tutte le dinamiche politiche che ci sono state, l'assenza di un movimento e così, in università è più difficile, ma anche colpa del modello di università che è venuto fuori nelle riforme che erano contestate nel 2008-2009, cioè un'università in cui veramente non si ha più tempo di conoscersi tra le persone, non si ha più tempo di fare socialità, di condividere o comunque di provare a imparare delle cose che non hanno un diretto impatto sugli esami. E siccome l'officina viveva dell'attraversamento delle persone, negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo anno, c'è stata una fase un po' di bassa. Di questo il Dipartimento ne ha approfittato per fare continui avanzamenti nella direzione di una normalizzazione dello spazio. Già a partire dall'anno precedente, a settembre, avevano messo una chiave della porta perché dicevano che non era possibile che la gente rientrasse di notte in officina. E questo accadeva perché noi ogni tanto organizziamo delle feste, diciamo che le feste a fisica sono sicuramente... che la socialità è uno dei progetti che ci riesce veramente bene, riusciamo sempre a creare delle situazioni super positive in cui studenti e non studenti si incontrano, siamo dei momenti veramente di valore, e durante questi momenti capitava che si rientrasse nel dipartimento per fare cose o per prendere cose in officina o così. E da allora, da settembre dell'anno scorso, è stata imposta una chiave. Noi abbiamo fatto delle contestazioni a riguardo, ma sono un po' rimaste appese, perché non avevamo la forza di opporci radicalmente a questi provvedimenti. E diciamo che durante l'anno le cose sono andate un po' così, i rapporti col Dipartimento, che comunque prima erano di comunicazione reciproca, sono andati sempre più deteriorandosi, fino a che siamo arrivati a giugno, che nei lavori che stanno facendo nel Dipartimento, premetto, questi lavori sono stati fatti perché dagli anni 60 c'era un abuso edilizio su un'ala del Dipartimento e durante il terremoto dell'Aquila si sono fatte delle grosse crepe, quindi effettivamente ci sono dei problemi strutturali, non si possono negare, il lavoro che hanno fatto è un lavoro importante. E comunque con la scusa di questi lavori il direttore ci ha intimato di sgomberare lo spazio e andare via. Noi all'inizio, anche con un po' di, forse sbagliando per poca malizia, ma sicuramente con un senso un po' di responsabilità, perché noi in quello spazio ci viviamo e non volevamo certo che ci crollasse in testa, abbiamo detto va bene, noi usciamo, ci portiamo via la roba, fate questi lavori e poi ne riparliamo quando sono finiti. E in particolare ci hanno detto che i lavori sarebbero durati un anno e mezzo, quindi che stare dentro un cantiere per un anno e mezzo non era sicuramente nei nostri primi obiettivi, insomma non era uno spazio più vivibile come era l'officina, quindi siamo usciti. E questo è successo a luglio, ci sono state delle feste, insomma si è fatto un'assemblea in occasione, se ne è già parlato, e noi abbiamo aspettato che finisse l'estate e che questi lavori venissero svolti. Ora è successo che verso la fine di settembre, la settimana scorsa, il Consiglio di Dipartimento, in cui noi abbiamo delle persone che conosciamo e che ci riportano un po', il Consiglio di Dipartimento decide che i lavori vengano divisi in due fasi, e la prima fase, che era quella dei lavori sul piano dove l'officina è, sarebbe terminata a brevissimo. e in particolare questa settimana. Quindi noi con molta speranza abbiamo detto: ah, che bello, l'officina, si finiscono i lavori, possiamo ripiazzarci magari anche in modo provvisorio, magari piazzarci dei tavoli per fare un'aula studio. In questo dipartimento non ce ne sono, cioè ce n'è una ma veramente sottodimensionata per le necessità degli studenti. Soprattutto non è uno spazio dove si può fare socialità, dove si può condividere, dove si può parlare di altro, perché l'officina era proprio questa, era uno spazio in cui sedersi, incontrarsi con delle persone, magari delle persone di un altro anno che ti raccontano degli esami, dell'esperienza che hanno appunto andando avanti con l'età, andando avanti con gli anni in facoltà, e che ti arricchisce, ti fa vedere le cose anche in maniera più critica, perché ti dà una visione d'insieme. Noi volevamo uno spazio così, abbiamo detto mettiamo dei tavoli in questo posto che è stato un po' ristrutturato, hanno messo diversi puntelli, credo si chiami il termine tecnico, e pudrelle, che sono delle staffe di ferro molto robuste che appunto tengono su il solaio del piano superiore. Hanno messo queste pudrelle, noi abbiamo detto vabbè, noi ci rientriamo, mettiamo qualche tavolo. E quello che è successo è che invece il giorno dopo, cioè esattamente il giorno in cui chiudevano i lavori, ci siamo svegliati alle 8 con la foto di un ragazzo che era venuto in dipartimento e che aveva fatto la foto a un'officina completamente murata, cioè murata una parede in cui invece che c'è esserci la porta c'era delle, insomma, un quadrato di un rettangolo di calcestruzzo. Questo è un muro solido, tra l'altro, cioè quello che noi abbiamo incontrato gli operai che stavano andando via ci hanno detto che questo muro è stato fatto con mattoni di cemento armato, insomma non un muretto così ma un muro vero e proprio. Ora, diciamo, senza che me lo chiedi, il dipartimento ha delle prospettive per quello spazio e vuole farci un laboratorio. Vuole farci un laboratorio d'eccellenza, perché il dipartimento quest'anno ha vinto dei fondi che vengono dalla riforma non so che, comunque dei fondi perché ha fatto delle ricerche di qualità e quindi ha ricevuto dei premi, cioè sempre tornando a discutere che i dipartimenti più sono potenti e ricchi più fondi ricevono, ma questo forse è un altro discorso. E comunque il dipartimento ha ricevuto dei fondi e in quello spazio vuole aprirci un laboratorio di fisica gravitazionale. Ora è difficile, soprattutto anche nella relazione, scusa, con gli studenti, vogliamo, comunque, appunto a volte è tirata stare a dire che un laboratorio non deve essere costruito, perché un laboratorio è la ricerca, sono persone che lavorano e sono anche, diciamo, delle cose che costituiscono questo dipartimento. D'altra parte è assurdo che in prima cosa ci hanno murato questo spazio per un laboratorio che chissà quando verrà costruito, perché comunque per fare il laboratorio bisogna finire prima i lavori al piano superiore che durano almeno un altro anno. Scusa, però io so che oggi c'è un'iniziativa di risposta a tutto ciò e tu ancora non l'hai nominata, quindi se magari dici... sarebbe da nominare anche più volte. No, cerchiamo magari di chiudere e di arrivare un po' al punto che è l'iniziativa di risposta che c'è oggi, no? Che, dove invitiamo anche chi ci ascolta magari a partecipare. Va bene. Sì, oggi abbiamo un'iniziativa alle 13 con un pranzo sociale e alle 14.30 con un'assemblea pubblica, e alle 14.30 ci incontreremo qui sul piazzale di fisica. Abbiamo cercato di chiamare tutte le persone che questo spazio l'hanno attraversato negli anni e che comunque sono stati compagni e compagne, ci sono stati vicini e abbiamo condiviso delle lotte e degli altri percorsi nella costruzione dei festival che abbiamo fatto. E la nostra intenzione è dare una risposta, diciamo, convinta al dipartimento, chiedendo uno spazio per gli studenti. Quello che vorremmo però trasmettere anche è che questa occupazione di spazio all'interno del dipartimento, di qualsiasi tipo possa essere, non vuole essere solo una protesta contro lo spazio che ci è stato negato in officina, ma vuole essere una chiamata a tutti verso una lotta ai meccanismi di repressione che sono in atto in tutto il paese da anni, in particolare da quando questo governo si è insediato. Cioè quello degli sfratti e gli sgomberi è un problema che sarà sempre più urgente nei prossimi mesi, e noi siamo dell'idea che bisogna dare una risposta convinta, una risposta anche forte, azzardata e ferma. Bisogna essere in molti e cercare di fare solidarietà tra le realtà che poi si trovano nelle stesse situazioni continuamente, perché tra l'altro sappiamo che in questi stessi giorni hanno sgomberato anche un'aula a filosofia, sempre con la stessa problematica dell'aula è a rischio, diciamo, i lavori di manutenzione, cioè insomma bisogna fare lavori di manutenzione, quindi andatevene. Questa cosa è assurda, perché non è che siccome si fanno dei lavori di manutenzione che sono più che giusti, cioè insomma è il dipartimento che deve pagare, allora gli spazi liberati, autogestiti, devono andarsene, perché quindi, insomma, i lavori li vogliamo e rivogliamo pure l'aula. Quindi scusa, l'appuntamento per oggi è dalle 13 sul piazzale di fisica? Giusto, dalle 13 sul piazzale di fisica, e seguirà un'assemblea pubblica vasta, insomma non sappiamo quando finirà, speriamo che ci sia una convergenza di molte persone che possa durare molto, almeno fino a chiusura. Ok, allora noi insomma rilanciamo questo appuntamento importante, insomma l'Officina di Fisica è uno spazio che da 9 anni vive all'Università La Sapienza, uno spazio gestito di circolazione di saperi, come ci raccontavi, ma non solo, con la ciclofficina, con il laboratorio elettronico, e sicuramente appunto in questa fase in cui l'Università anzi prende una direzione completamente opposta è fondamentale mantenere questi presidi, ridare spazio agli studenti, e da un altro lato, come dicevi tu, anche contrastare sicuramente una deriva chiusa repressiva. Sì. Ok, insomma l'appuntamento di oggi già col pranzo può essere un'importante risposta, quindi ore 13 sul piazzale di fisica. Noi insomma ti ringraziamo per la corrispondenza e per la storia che grazie ci hai fatto dell'officina, e niente, allora in bocca al lupo per l'assemblea di oggi, e speriamo di rivedere presto l'officina attiva. Viva, un saluto a compagni e compagni in ascolto, ciao.